Sete Lugina, però è poco che sono qua ad Drena. È un posto che mi è sempre piaciuto, anche i miei figli. Abbiamo costruito la casa in modo che dopo la pensione noi ci siamo trasferiti tutti e due qua ad Drena. E ho trovato la tranquillità, un ambiente familiare e l'aria pulita, tanti boschi da camminare, la natura proprio si vive. Ci sono tante strade di quelle di una volta, costruite con i muri, con i sassi. Questi sentieri con tutte queste foglie per terra, questi sassi, le laste dei sassi che si possono camminare. E adesso la natura si sta svegliando, ci sono già i primi fiori. E poi scendo dall'altra parte e li trovo i castagni, dei boschi di castagni. Poi ci sono le viti che sono state messe nuove adesso tra i muri sempre. Hanno fatto diversi impianti nuovi. Risanato il terreno, però si vedono sempre il lavoro di una volta, ci sono i muri a secco, sai, dei sassi, piante che ormai una volta ce n'erano tantissime, adesso li stanno un po' sostituendo, però si trovano ancora dei posti che è bello vedere perché si ricordano il tempo passato, quando ero giovane anch'io, che si poteva fare passeggiate, insomma. Anche se io vivevo in un'altra zona dove c'era tutta pianura e lì le coltivazioni erano diverse, diverse da adesso e diverse anche da qua, perché là c'erano i meli, c'erano altre piante. Proprio oggi ho sentito, tagliavano la legna giù in paese, sicché la motosega, poi qualcuno sta costruendo una casa qui sotto e si sentiva battere, pim pom pam. Poi dall'altra parte lavoravano le viti e lì c'erano quelle macchinette. Dall'altra parte della zona là battevano qualcosa, non so, e stavano rastrellando le foglie dei castagni su quel bosco in cima. Pensavo di essere da sola, invece da sola non ero. Poi nel bosco non fai altro che sentire gli uccelli che toccano le foglie, che sono sulle piante, brutte, le lucertole che girano, perché ti giri e ti prendi paura, perché vado, tante volte vado anche da sola, no? Paolo Bombardelli, la mia vita si è tutta al look di Drena fino a che mi sono sposato e sono dovuto scendere a Drena. L'università. Look era una frazione e mi piace ricordare la differenza che c'è da oggi a allora. Lei parla di suoni, però i suoni allora erano tutta un'altra cosa. I suoni erano, facevano parte della vita, oggi invece la rovinano la vita quasi i suoni. Una volta il suono era qualcosa, il cane che abbaiava, perché qualcuno passava, perché erano più cani da guardia, non erano cani da compagnia come abbiamo oggi. Allora era un cane che era da guardia, passava uno anche a piedi, abbaiava, di conseguenza faceva abbaiare anche gli altri cani, si metteva un po' in allarme tutti perché Chiamava. dicevano arriva un foresta, Foresti, perché davvero. se era uno conosciuto il cane non abbaiava. Entrava nel modo di vivere, era una cosa che ormai era acquisita in noi, anche bambini, perché dico, parliamo degli anni 50, anni 60. Io sono venuto a Drena la prima volta nel 64, per cui avevo 11 anni. Allora andare a Drena era una roba, no, però si veniva a fare le vaccinazioni dal medico, sì, no. Davvero. Per noi era un'emozione, si andava in città quasi, perché lì c'era la bottega. La bottega vendevano le caramelle, non le caramelle, c'era la cioccolata, mi ricordo era di tre colori, rosa, bianca, marrone, no? La mettevano un cucchiaio su un pezzo di carta, no? Perché non era, cioè era la festa, diciamo. Purtroppo erano tempi di magra, veramente, diciamo. Però devo dire che la Stava differenza tra meglio. oggi e allora, allora ci si guardava Meglio. in maniera, diciamo, no? Sincera. C'era armonia, oggi invece c'è quasi invidia, egoismo, che è tutta una roba, c'è rabbia, non si sa come metterla, la differenza è quella. Nei paesi era così, noi, io parlo da bambino, eravamo, noi con i ragazzi di Drena c'era lo scontro, cioè, loro non volevano vederci, che noi eravamo, volevamo venire qui, ma loro non ci accettavano. Poi ci facevano correre la sassata dopo, quando perché la strada da Drina a Lucca non era né come adesso illuminata, era più che altro una strada abbastanza buia, diciamo, come, perché anche le piante erano vicine alla strada, non è che adesso è tutta un'altra cosa. I paesaggi allora erano, non erano come oggi, tenuti, diciamo, curati. Sì, si faceva perché si poteva, ecco. Si andava ad Arena la sera, di notte, Bagel era la civetta, no? Però aveva suoni che noi non erano molto benevoli, diciamo, no? Perché Senza oppure paura. poi il capriolo, che magari invece che dormire ha un suono che sembra La capra. una persona. Come se lo facesse, diciamo, no? Una persona che vuole farti prendere Paura. paura. E per noi era abbastanza logico, dopo quando hai 13-14 anni le cose cambiano, insomma, non è che la paura rimane lì. Però era, Era no, spaventoso. nei miei anni, diciamo, la primavera, l'estate, la gente che falciava l'erba, non come adesso che trattore, no? Che allora c'era la falce, no? Quando affilavano la falce, il rumore particolare, oppure che picchiavano la falce sempre per rifare il filo di taglio, e la gente cantava, mentre tagliava l'erba cantava. Più che altro mi ricordo quelli che stavano di fronte a casa mia, a Luc, che era Bruno e Enrico del gusto, gli canteva Marina, Marina, no? Oppure oh mio bel amore, no? Ma a squarciagola, e la mattina, siccome la mattina presto l'erba è un po' più umida, è più facile da tagliare a mano, non come adesso con le macchine. Allora già alle 5 di mattina cantavano a squarciagola, per cui dormire neanche parlare, insomma. Oggi, per amor di Dio, non è che si rimpiange, perché oggi si sta più bene. Questa è fuori discussione, cioè il benessere non è che l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo messo nel cassetto perché ci piace vivere come una volta. Ogni periodo ha il suo modo di vivere, probabilmente, però era molto, a livello umano, molto migliore. L'avvento della televisione, la prima televisione a Lucca negli anni 65, si andava tutti in una casa, no? Era come il cinematografo. Ora, se tutti vanno in una casa, tutti socializzano. Bene o male ci si trova anche. Oggi invece, dopo la televisione ha cominciato a diventare tutte le famiglie, però parliamo degli anni 70, 71. A Luc, diciamo che hanno avuto tutti la televisione dopo il 75, per il telefono uguale. Telefono in casa, sì, 76, 77. Per cui questo ha portato che ognuno si chiude, cioè non vengo più da te. Ti telefono, guardo la televisione invece che venire a vedere, ha un po' chiuso, diciamo, no? Quello che era l'abitudine di muoversi, di portarsi a fare il filò, diciamo, nelle famiglie, nelle case, prima, come noi adesso. I bambini la sera si trovavano in un luogo stabilito, che decidevano, lì o piuttosto che là. E era un modo di ritrovarsi, e dopo ognuno ha un po' seguito i propri interessi, e allora non è che si perdono solo i suoni, si perdono anche le visioni, anche le capacità, purtroppo. A me una cosa che manca sono le voci e gli schiamazzi dei bambini al parco giochi. Proprio mi manca tanto con la scuola, sì. E poi anche la libertà di poter girare tranquilli senza che hai paura che qualcuno ti porti via o cioè, c'era anche più fiducia da parte dei genitori e figli. Io mi ricordo questo periodo bellissimo appunto della mia infanzia, se andavo a scuola alle 8:30, andavo a piedi. A mezzogiorno andavi a casa a mangiare, alle 2 tornavi, si portava la merenda, si condivideva mi ricordo, col maestro Saverio. Si giocava al parco giochi e si senteva vivo proprio il paese. Sì, è vero. Purtroppo adesso, nonostante insomma ci siano i bambini, perché i bambini ci sono, però dopo le 4 però Brenna, purtroppo sì, frequentando le 5 le scuole negli ambienti qua nei paesi vicini, si è un po' svuotata insomma di questo. Sono rari insomma le mamme che trovi al parco giochi con i bambini, ma veramente poche.